Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, eccoci qui. Eccoci qua. Che allora, santo è oggi? Sant'Alessandria? No. Ci sono santi vari per tutti i gusti, per così dire, che oggi è un Sant'Agnese. Poi c'è una Sant'Angela della Croce, che è una protettrice dei poveri, perché molto fece nella Spagna dell'Ottocento. Simplicio, papa del V secolo. Poi c'è un Carmelo di Savoia, un Loggio Martire, sono veramente nomi parecchio strambi. Però mi ha molto colpito che questo giorno sia in cui nacque la Terza Internazionale Comunista nel 1919, e poi vedi la provvidenza, come oppure il caso e la necessità, a seconda di quello che scegli, del libro di Jacques Monod. Vent'anni dopo, lo stesso giorno, la Chiesa rispose facendo Papa Pio XII. Quindi vedi la storia. Questo giorno ci sono delle cose varie e diverse. Importante. Vedi che le ricorrenze, insomma, sono corsi e ricorsi. Chissà se di questi giorni storici ricorderanno più gli Oscar, il primo Oscar per esempio a DiCaprio, oppure il fatto che nel Super Tuesday stanotte mi pare che Trump fa un serio passo verso la presidenza degli Stati Uniti e cambia la storia, mio Dio. Sì, Trump e Hillary Clinton, pare che siano dal Super Tuesday usciranno queste, no? Le due candidature da una parte. Hillary Clinton dice che vince contro di lui, non lo so, io in entrambi i casi non sarei molto sicuro. Questo sarà una seconda partita. Ad avere la valigetta nucleare nelle mani di uno di quei due. Però questo sarà una seconda partita, però una prima partita pare ormai abbastanza chiaro che si andrà verso uno scontro tra Hillary Clinton democratica e Donald Trump repubblicano. Esatto, perché tu a te non piace Hillary Clinton, quindi sarà scegliere veramente come quando si turava il naso, se fosse americano. I miei giudizi soggettivi verrebbero nulla. Il problema è che mi chiedo come possa diventare comandante in capo con la valigetta nucleare una che ha fatto sparire 500 mail coperte dal segreto di Stato, cioè di totale riservatezza, dal server di Foggy Bottom, cioè di quando era segretario di Stato. Cioè, secondo me siamo come Richard Nixon. Cioè, dall'altra parte quello che cita Mussolini. E dall'altra che dice delle cose altre. Siamo a posto. Sì, esatto. Quella di citare o retweetare una frase di Mussolini, che probabilmente lo sapeva anche bene chi fosse. Quella di dire non è neanche la cosa più grave. Il Ku Klux Klan, mi rifiuto di prendere le distanze perché non conosco l'organizzazione. Cioè, ecco, capisci che uno che dice cose simili dice, esatto, va bene. Comunque, cari ascoltatori, 800 24 00 24, per venire a cose più italiane, Renzi ha detto, a me sistemato ancora i gufi, ha detto che l'Italia riparte, no? Sentiamo dopo che l'Istat ha reso noti i dati del PIL. Per 3 anni il segno dell'economia italiana era il meno, adesso siamo al più e sarebbe assurdo non guardare questa novità come un fatto positivo. Prima di aprire il derby su quali tasse abbassiamo nel 2017, mi piacerebbe sottolineare che in questi anni le tasse sono andate giù, perché in Italia solitamente le tasse aumentavano. Insomma, un Renzi che ieri, ha preso spunto da questi dati per mostrarsi molto molto, se volete, anche aggressivo nella comunicazione. Le chiacchiere dei gufi stanno a zero, l'Italia riparte, no? Più 0,8% del PIL. Io devo dire 3 cose. La prima, via Ugo Magri sulla stampa, che dice, vabbè, che sia ben chiaro, i politici ai numeri fanno dire quello che vogliono, lo dice proprio chiarissimo all'inizio del suo commento. Bene, secondo, mi considero come collega un po' uno che si è dato la testa stamattina, perché dei grandi giornali italiani nessuno spiega che cosa è davvero successo, mentre lo fanno testate come Il Fatto Quotidiano o la Huffington Post, mentre i dati che noi conosciamo dai 4 trimestri rilasciati dall'Istat dicevano più 0,6 di crescita, l'Istat aveva detto beh sarà un più 0,7, il governo masticava amaro perché aveva detto prima più 0,8, poi aveva detto più 0,9, poi più 1%, Ecco che improvvisamente ieri l'Istat dice no, siamo a più 0,8%, bene, e le tasse invece che, come aveva detto l'Istat, che erano cresciute sul 2015 sul 2014, passando al 43,7, scendono al 43,3. Come mai? Perché l'Istat ha fatto una revisione ex post degli anni precedenti, quindi abbassando il PIL, rispetto a questi è chiaro che i numeri del 2015 risultano migliori. Diversi professori universitari, ieri il professor Daveri, Carlo Alberto Cannavale Maffè, Riccardo Puglisi, altri hanno spiegato che questo è stato il modo in cui ci sono queste cifre, in cui l'Istat alla fine accontenta il governo. I grandi giornali fanno tutti finta di non vedere che questa è la spiegazione. Benissimo, intanto non è il caso di litigare su un più 0,1 in più o in meno. Sì. Resta il fatto che, sai, lo Stato che dice a noi italiani che non diamo bene i numeri della dichiarazione fiscale, quando lui rivede ex post i numeri per dice, li vorresti bene dallo Stato. Ecco, almeno li diamo a buoni numeri lui. Ecco, allora, io mi ha colpito questo dato sul Jobs Act, anche Renzi dice più 70.000 posti di lavoro questo a gennaio, il Jobs Act è impressionante, ha dato impressionante questa però definizione. Meno occupati tra i giovani, gli occupati sono tutti più 50 anni. A me ha colpito perché di fronte a questo Jobs Act i numeri, insomma, più 70.000 è un dato sicuramente positivo. Oggi Repubblica, per esempio, racconta in una pagina la corsa del mega concorso, 4.800 candidati per un posto da infermiere dell'ASL di Verona. Questo per dire che effettivamente, al di là dei numeri, c'è un paese reale che forse fatica a riconoscersi in numeri anche dati come numeri positivi, a dire come è possibile allora che se l'Italia riparte ci sono 4.800 persone, la disoccupazione persone che... bloccata all'11,5% e quella giovanile a 39,9, quindi poi uno può fare la fronte anche oggi sulle 24 ore dice che in Francia in realtà è più 1,7%, in Germania più 2,2% il PIL, insomma uno poi i numeri, come dici tu, li può vedere sia positivamente, confrontarli con altri paesi, insomma i numeri sono come insegna Trump gestibili, oramai gestibili. L'aggressività è diventata l'arma della politica, quindi è inutile sperare che con la lavagna, il rigore nei numeri, la politica ti dia retta, perché ti deride, ti ride in faccia e dici ma sì, povero professorino gufetto, questa cosa qua. E non paga il caffè, ma l'hai letta questa alla buvette della Camera? C'è una rivolta degli onorevoli. Pensa. Perché poveretti adesso si devono comportare come tutti gli italiani e cioè devono prima fare lo scontrino e poi consumare. Che persecuzione, ma una cosa incredibile. Anche perché l'antipolitica vince, come direbbe, che sì, ne so. Ecco. L'antipolitica, esatto. Non date no. Contro, siete populisti, che siete orrore. Demagogici a dire che anche il problema dell'Italia è che anche il deputato deve fare prima lo scontrino poi consumare, se no scrocca magari un caffè. Io capisco la loro difficoltà, perché gli hanno dovuto spiegare che cosa, per la prima volta nella vita, capisci? Si erano stupiti, dicono un caffè grazie, c'è Lupi, un caffè grazie. Onorevole, dovrebbe prima fare lo come lo scontrino? Che cos'è? Non ha detto che cos'è. Ma perché ieri la direttora dell'Agenzia delle Entrate che se ne esce dicendo i contribuenti che non collaborano faremo vedere il lato oscuro della forza. Il lato oscuro. Vabbè, dai, ma lì lo sai che guerre stellari fa perdere un po'. È la rovina del mondo. Adesso dico questa cosa. Perché credo di essere in un film, mondo. Ma scambia il film dell'orrore per quello. Ecco, quello non è un film dell'orrore. No, guarda che è una questione seria. In un paese libero, il fisco è efficiente ed è quindi il punto di riferimento vero, anche etico, se è trasparente. Nei paesi autoritari il fisco ha i lati etici e quindi oscuri della forza. Guarda che è una differenza di fondo, di fondo. Oltretutto mi ha molto colpito perché ieri parlava il direttore Orlandi a proposito della dichiarazione elenco clienti fornitori. L'elenco clienti fornitori che viene messo elevato nel nostro ordinamento non lo siamo una no, quindi per i contribuenti, per i commercianti, per esempio, le piccole ditte, capirlo non è così facile. Però detto questo, nel nostro ordinamento è stato reintrodotto, ma sapendo che molti sono corti di cassi, con l'idea che ti puoi ravvedere dopo l'eventuale contestazione dell'Agenzia delle Entrate. Cioè c'è proprio questa roba qua. E lei invece con quella frase ha trattato tutti come se fossero i delinquenti incalliti. Allora, se c'è una legge dello Stato che l'ha prevista in questo modo, Perché tu ti devi permettere di il trattare... lato oscuro. Eh no, ma dai. Ma tra l'altro, caro Oscar, tu hai citato le tasse. Effettivamente ieri Rossello Orlandi, direttore dell'Agenzia delle Entrate, ha dato i numeri del 2015, no, della riscossione. Hai parlato di tasse. Ti ricordi che noi qui in trasmissione, tu nella tua trasmissione in pomeriggio, chiamammo di recente Antonio Fiumefreddo, che è il... oddio, è... Era, forse bisogna quasi, dire era, cioè il presidente di Riscossione Sicilia, quello che ha mandato anche, ha fatto pignorare gli stipendi ai deputati siciliani, quello perché per la prima volta gli chiedeva i soldi ai politici siciliani, perché voi siete esclusi dai provvedimenti esecutivi se non pagate le tasse, esatto. Non siete uguali agli altri e io vi pignoro. Ma certo, io poi l'ho intervistato anche per il quotidiano Libero e lui mi ha detto guardi che stanno brigando per mandarmi via, io dicevo no, ma non è vero, Fiumefreddo buongiorno, no non è vero, buongiorno, non è vero che stanno brigando, perché, no, perché lo stavano brigando, lo stavano davvero mandando via, l'hanno fatta fuori Fiumefreddo. Eh beh sì, è una sentenza annunciata, che chi si permette di, chi tocca i fili muore, no? Cioè chi si permette di chiedere il rispetto della legge anche a questi signori che assediano il palazzo dall'interno, deve pagare, quindi insomma non è che c'è un'amarezza incredibile, cioè raccontiamo agli ascoltatori, il presidente di Riscossione Sicilia è l'ex presidente di Riscossione Sicilia, che è successo a Fiumefreddo? È successo che i parlamentari hanno, in occasione della ricapitalizzazione della società, hanno accettato di stanziare un fondo, che poi si tratta di un rimborso di spese dovute dalla regione alla società, a condizione che io lasciassi la società, reo di aver dimessi alla berlina. Ma questa è una dichiarazione che hanno fatto in aula, cioè in aula del Parlamento siciliano, moltissimi parlamentari si sono alzati per dire che non era possibile. Non era è lei che ha vilipeso le istituzioni, secondo loro. Gli ha chiesto i soldi, gli ha chiesto i soldi, non si fa. Ma lei pensi che per aver detto loro che sono dei pirati, perché saccheggiano e non pagano, mi sono beccato una denuncia al Presidente dell'Assemblea. C'è anche una querela, Come no, per diffamazione al corpo politico, quindi certo, una sorta di terrorista. Di certo che lei ci si è messo di buzzo, buono, perché tra il tagliare le centinaia di avvocati che prosperavano come esterni all'ufficio legale, 887 primo, poi per di più, pretende che quelli dell'Assemblea regionale, come tutti gli altri cittadini, se non pagano le tasse, siano sottoposti ai procedimenti di rientro esecutivi, compresi i in più non si accontenta, lo manda a tutti i componenti dei consigli comunali di Palermo, di Catania, eccetera, eccetera. Ma lei si era messo in testa che la Repubblica è un paese dove tutti sono uguali di fronte alla legge? Beh sì, ho questa illusione, peraltro da giurista, quindi una gravata. Esatto. Ma soprattutto non credo sia possibile immaginare una regione in cui le tasse le paghi appena l'8% di media della popolazione, cioè non è possibile. E quindi credevo che dovessero loro per primi dare l'esempio, non lo hanno fatto e li ho pignorati, come accade con i cittadini. E adesso loro la sfrattano. Lei pensi che uno di questi deputati, il presidente della commissione bilancio, ha detto che lui con la sua indennità non arriva a fine mese? E perché? Come no? Vinciullo. Perché c'ha molti regali. Regali di matrimonio. Ecco, io credo che sia un'offesa veramente per la povera gente. Però le posso dire una cosa: i cittadini capiscono perfettamente quello che succede e ho la sensazione che questi signori siano veramente rinchiusi nel fortino e resteranno autotravolti. Veramente c'è lei dice no, ma comunque a me rimane no, ma è chiaro, mi auguro sempre che ci siano degli integerrimi come Fiumefreddo, però Oscar, sto invecchiando e dopo decenni in cui ogni volta mi dicevo verranno travolti, vedo che sono sempre sì. Ma poi rimane questa amarezza, cioè stiamo parlando del fatto, la notizia che il presidente di Riscossione Sicilia, che ha fatto tutto quello che abbiamo raccontato nelle precedenti trasmissioni, di fatto è l'ex presidente di Riscossione Sicilia per aver tentato di fare quello che voleva fare. Adesso vedrai che i politici siciliani, con la sottigliezza che è classica di queste situazioni, inizieranno a dire ma voi credete a Fiumefreddo, ma si era montato la testa, ma quando mai, ma non è vero, ma lascia sicuro, aspettiamocelo nei prossimi giorni perché fa parte del rituale. Ecco, io chiedevo un rimborso di 2 milioni e mezzo per la società e non li trovavano, nel momento in cui hanno avuto la mia testa, cioè nel senso che hanno fatto rimettere i due consiglieri di amministrazione per farmi decadere, hanno trovato ben 13 milioni e mezzo. Vede che era lei il problema, era un po' lei. Direi proprio di sì. Ma credo che avranno un problema, che è quello della gente, insomma, spero, da ottimista, ma soprattutto in una regione in cui aumentano i suicidi perché c'è povera gente che riceve le cartelle e non riesce a pagarle, si lancia dal balcone, avere parlamentari che non pagano e che immagino che adesso insomma interromperanno nuovamente le rateizzazioni, immaginare. Perché si erano messi tutti più o meno a posto. E questo è il lato oscuro della forza fiscale con i politici che non pagano prima che ci faccia lezione. Comunque, Antonio Fiumefreddo, noi la ringraziamo. Insomma, in realtà si conclude un po' con amarezza. Devo dire che l'altra volta quando l'abbiamo intervistata, finita la trasmissione, gli Oscar ci siamo guardati dicendo... Chissà quanto dura, dobbiamo dirlo, dobbiamo ammetterlo adesso. Avete ragione. Però sentiamo che lei almeno la coglie col sorriso. Chi lotta sa bene di quali... Che tipo di gente si trova davanti. Questi sono antropologicamente diversi da noi e dai cittadini normali. Ecco. E quindi bisogna non fermarsi e fare tutto per mandarli a casa, ma in maniera seria. Qualcuno anche in galera, se fosse possibile. Ecco. Accidenti. Un travolgente grido di mi dica cosa intende fare nella vita, che io lavoro gratis per lei. Però comunque teniamoci in contatto. L'avvocato Fiumefreddo è un avvocato penalista da decenni, quindi la ringraziamo ovviamente, in bocca al lupo. Insomma, che dobbiamo fare, caro Oscar? C'è Antonio che ci chiama dalla provincia di Salerno. Buongiorno Antonio. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Che dice? Io volevo intervenire perché Renzi ci fa sempre traballare sulle seggiole, perché in quanto a cuneo fiscale pecca di populismo quando parla di tasse abbassate o tasse che saranno abbassate, ma noi sappiamo benissimo, io mi occupo di commercio al dettaglio, è un'attività da 15 anni e dagli ultimi 8 anni non mi ritrovo più con le dovute entrate per sopperire alle tasse, per cui volevo chiedere a voi che siete forse sicuramente più preparati di me a capire che cosa sta succedendo in Italia, perché nessuno forse... Cioè, lei non crede all'idea abbiamo abbassato le tasse e abbasseremo ulteriormente le tasse, dice, dalla mia vita quotidiana non lo tocco con mano. La mia domanda specifica sia a te Milan che dottor Oscar è quella che Renzi forse crede di aver abbassato le tasse o le abbasserà, ma su quelle statali, e poi lascia agli enti locali questa è la questione, Antonio, cioè se anche si abbassano le tasse a livello centrale, ma i comuni in questa difficoltà devono aumentare l'IRPEF locale, devono aumentare l'IMU, la TASI, mettono i massimali, alla fine il cittadino non è che gliene frega se lo dà a Roma o se lo dà al proprio comune, no? Tanto sempre la tasca gli esce. Questo sì. Comunque questo bisogna rendere atto al fatto che Renzi ha questa energia incrollabile per cui annulla chiunque non pensi come lui. Cioè, noi continuiamo a crescere meno di tutti gli altri paesi europei? Non è vero, noi siamo più forti degli altri. Questo è diventato il mantra di tutti i giornali. Abbiamo il debito fortissimo? Non è vero, abbiamo un debito che in realtà è meno pesante di quello tedesco, scrivono tutti i giornali, compreso il Sole, tanto per essere chiaro. E così via. Cioè, lui è, con grande energia, radica un mito positivo e chiunque obietti nome di numeri viene additato come un rompicoglioni, un cretino, un gufo, veramente un cretino. Cioè, a me arrivano telefonate dall'alto di signori potenti che dicono: ma quando è che la smetti e capisci che così domani non... Capiscila, come a Fiumefreddo, capiscila. Allora, tra pochi minuti, io sono molto contento perché sai che c'è un grande amico di Radio 24, che è Simone Moro, alpinista che ha fatto un'altra impresa, Nanga Parbat, mito, quarto 8000 conquistato in inverno. Simone Moro per la prima volta parla con l'Italia, perché l'abbiamo scovato finalmente, insomma era preso dalla discesa, e sarà con noi collegato dal Pakistan, Simone Moro, a raccontarci la sua ultima impresa, tra poco. Voi continuate a chiamarci ovviamente. Allora, caro Oscar Giannino, eccoci qui. C'è un grande amico di Radio 24 che finalmente non perché non si faceva trovare, ma era impegnato in altre faccende più importanti, ma l'abbiamo trovato, credo, anzi sicuramente in Pakistan, è Simone Moro. Ciao Simone, come stai? Ciao Alessandro, sto bene, sono arrivato da poche ore dopo un bel viaggetto lungo la Karakorum Highway con un pulmino mezzo scassato, 16 ore di viaggio, però sono a Islamabad. A Islamabad. Caro Simone, ci devi raccontare questa impresa che hai fatto, insomma, Nanga Parbat. Ce lo puoi descrivere? Perché... Inverno. Sì, ma descriverla a parole non... credo sì. Come si fa? Prova a trasmettercela, no? Allora, questo era un sogno di lunga data, nel senso che al Nanga Parbat ho fatto il calcolo, ci ho passato un anno della mia vita sotto o lungo le sue pareti, perché tra il primo tentativo del 2003, poi quello del 2011, poi 2014, adesso, insomma, era un grande sogno. Per i grandi sogni bisogna anche avere pazienza, bisogna aspettare i momenti giusti, bisogna aspettare le condizioni giuste. E io sono uno che di pazienza ne ha e non sono uno che si demotiva velocemente. Sì. Questa volta è stata premiata non solo la capacità, non mia, ma di tutto il gruppo, perché eravamo in tre, certo. Quattro, scusate, sulla vetta, e è stata anche premiata la voglia di non ascoltare i distruttori di sogni, quelli che ti dicono ma no, ma guarda che è impossibile, non ce la farà. Ci spieghi, è vero che c'erano quanti? 40 gradi sulla vetta più vento, meno ovviamente 40 gradi più sì, vento. Sì. C'erano 45 km orari di vento e la temperatura era circa di 40 gradi sotto zero, tra i 34 e i 38 sotto zero, quindi il windshield, l'effetto raffreddante del vento abbinato alla temperatura ha messo a dura prova l'ambizione e la voglia, la capacità di arrivare in cima. Ed era eterno, giusto per spiegarvi, alla fine la velocità con cui ci spostavamo era inferiore ai 100 metri l'ora. Cioè per fare 100 metri di dislivello si piegava il 109. Ma quando il windshield è a quei livelli, per quanto uno possa avere, immagino ovviamente, caro Daniele, il materiale tecnico migliore del mondo, ma davvero riesce a stare isolato termicamente? Perché poi uno alla fine deve, per salire, le mani le deve usare e così via. Cioè il rischio congelamenti non c'è comunque. No, c'è. E giusto per portare un esempio, noi immagino anche per i non alpinisti abbiamo... l'immagine dell'alpinista che tiene in mano la picozza a mani nude d'estate con il guanto d'inverno e man mano ogni passo, come se fosse un bastone, lo porta sempre più avanti per conficcare la picozza nella neve. Ecco, una delle cose che va quasi sempre fatta, io questa volta non l'ho fatta, è di incerottare tutta la testa della picozza, perché fa talmente freddo che il freddo che il gelo si attacca sulla becca della picozza e passa anche il guanto, ti congela la mano. E come mai ti sei dimenticato? No, non mi sono dimenticato, mi sono fidato totalmente dei guanti che avevo e infatti non ho congelamenti alla mano. Però mi formicola il pollice e per un po' ho detto, ma come mai? Per quello. Quindi posso fare un'altra domanda? Tu hai detto prima, ci sono dei sogni che anche se, soprattutto visto quel coefficiente di difficoltà e visto l'imprevisto meteo, anche se vai male una volta, due, quando si parla di 7-8 mila, bisogna comunque insistere. Quindi significa, per esempio, tu torni su Annapurna malgrado le volte che ti è andata storta? Sì. Ma è anche una scuola di vita, perché adesso noi siamo abituati a voler sempre tutto e subito. E spariamo i nostri obiettivi in maniera ambiziosa senza capirne la portata. Allora, se uno dice, guarda, io voglio diventare il miglior medico del mondo, ma allora ti devi fare un bel mazzo, ti devi fare tutta l'università, devi studiare, devi diventare più bravo degli altri, perché gli altri non è che sono dei somari, non è che sta lì a aspettare te. E quindi io so benissimo che il Nanga Parbat d'inverno, come le altre invernali che ho pubblicamente lanciato come miei obiettivi, mi prendevo la responsabilità primo di saper perdere e secondo di dover imparare dalle sconfitte quali erano i trucchetti che eventualmente mi avrebbero potuto far mantenere alta l'asticella e riuscire un giorno a passarla. No, ma è straordinario tutto questo. Tra l'altro, caro Simone, insieme a me, insieme a Oscar Giannino, c'è una persona che tu conosci bene e che hai tentato invano di iniziare. Sono cattivissimo. Filippo Facci, ciao Filippo, come stai? Ciao Filippo. Ciao Simone. Ciao Filippo. No, sono stato... Come va il... sono stato cattivo. Piede sinistro. Esatto, il piede sinistro ti chiede Filippo Facci, perché insomma so che hai avuto qualche problema, Simone. Sì, guarda, ho appena fatto adesso la doccia, è ancora un po', non dico violaceo, ma rosso. Ma però niente di pericoloso, ho preso quello che noi chiamiamo volgarmente un gelone, cioè ho preso una bella botta di freddo, ma non c'è nessun principio di congelamento. Non ho voluto usare nessun sistema meccanico di riscaldamento delle solette, adesso ci sono, grazie a Dio, grazie a Dio, delle solette riscaldate a batterie che non ti fanno gelare i piedi. Però nel mio mondo ci sono i puristi, strapuristi che dicono: ah, hai usato le solette, allora sei una pippa, allora non sei più un vero. Allora io gli ho fregati. Non ho usato stili, non ho usato elicotteri, non ho fatto comunicazione, non ho usato le solette, li ho inchiodati al muro. L'ho fatto con tutte le mie forze. Se facciamo questo discorso dei puristi non ne usciamo più, l'abbiamo già fatto in passato. Infatti. Io una volta mi sono divertito a ricordare che c'è addirittura chi ha detto che la vera salita dell'Everest, disse un alpinista, l'aveva fatta lui perché era partita dal Golfo del Bengala, cioè sul livello del mare. Come no? Effettivamente. Tanti cappello, però hai ragione, non ne usiamo più. Filippo. La mia domanda comunque era interessata, perché siccome io ho comprato, non dico la marca, le stesse scarpe che a modo, cioè volevo in parte completare la domanda che ho fatta prima, cioè come può ancora succedere tecnologicamente, diciamo così, che un piede, uno e non l'altro per esempio, possa congelarsi solo per meno 40 gradi sotto zero. Per come può ancora, cos'è, una questione di movimento non fatto, no. Di allora comincio nel dire che vado, Simone, vado orgoglioso che sì. Le scarpe più belle del mondo, anche per andare in cima al Nanga Parbat d'inverno, le facciamo noi italiani, ok? E tutto il mondo compra scarpe italiane di questa ditta del Trentino Alto Adige, ok? Senza farne il nome, però sono italiane. Il problema dei congelamenti è perché i piedi, come le mani, vengono considerate delle parti distali, cioè distanti dal cuore, e quindi sono anche le più vulnerabili, le più lontane dalla caldaia del corpo umano, chiamiamola così, ok? Dei luoghi caldi del corpo umano. E il problema del freddo non è stato dato che la qualità non è sufficientemente buona, ma il sangue diventa quasi denso come il miele per un aumento spropositato del numero di globuli rossi. E quindi un sangue molto denso, nelle zone periferiche del corpo, fa fatica. Senti, ma Simone, ma ce lo racconti il primo pensiero che hai avuto quando sei arrivato in cima al Nanga Parbat? Cioè, ce l'hai ben focalizzato, sì, nella mente? Allora, metà pensiero non posso dirtelo perché vabbè, magari una cosa intima e no, tua. No, perché lo si non se lo ricordo. Su Sport Week, su Gazzetta, la dedica. Chi mi è venuto in mente là in cima? Ti posso dire che arrivare in cima al Nanga Parbat e vederti in una giornata bellissima come avevamo, seppur fredda, il K2, il Brotik, il Gashenbrun 1, il Gashenbrun 2, che sono a distanze di alcune centinaia di chilometri, è stata una visione pazzesca. Poi mi sono girato dall'altra parte e ho visto tutte le montagne dell'Hindu Kush, quindi dalla zona dell'Afghanistan, poi dell'India. È veramente una montagna isolata e gigantesca che mi ha permesso di osservare una porzione realmente di mondo montuosa, bellissima. Insomma, sensazioni difficilmente trasferibili, uno le vive o non le vive. Filippo, Simone, ma cosa significa per te, sì, Simone Moro? Cosa significa per te Simone Moro, Filippo? Cioè, per te chi... detta così è quasi filosofica, però è un amico ormai, credo, che ho conosciuto quest'estate a margine di un, chiamiamolo, reality, sì, Monte Bianco, incredibile, dai, che ha risvegliato la mia voglia di montagna, dalla quale, maledetta, non sono ancora più riuscito a staccarmi, tanto che appunto sono ormai malato di montagna, sempre su nel mio piccolo, insomma. È un amico che si è divertito anche a portarsi in giro in elicottero mio figlio di 6 anni, e a me non mi ha ancora portato. Vabbè, questa richiesta in diretta, insomma, arrivi a Simone Moro. No, perché ricordiamo che Simone Moro ed è un amico, dei record anche di in altezza come pilota di elicottero. No. Vorrei fare 200 o 300 domande, sì, però ne faccio una sola adesso. Faccio finta di fargliene una sola. E Tamara Lunger? Cioè, questa è la domanda che volevo fare anch'io. Filippo, sei perché stato bravo. Letto, È stato bravo perché se non me lo facevate voi lo ma guardi, no, io letto, era già previsto. Fammela finire. Sì, sì, ho letto su un quotidiano tedesco che lei ha dichiarato praticamente che ha avuto prima un infortunio per cui addirittura caduta in un crepaccio, un piccolo crepaccio apparentemente cercando di saltarlo. Mm. E poi vabbè che c'è stato, vabbè si fa per dire, il problema dopo il campo 4 per proprio problemi di stomaco per cui insomma alla fine si è fermato in quello a 70-100 metri lasciandovi abbastanza eroicamente la possibilità, senza chiedere di essere riaccompagnata, eccetera, la possibilità di andare avanti. E appunto io volevo capire questo. Ultima domandina legata a questo. Il campo 4, cioè l'ultimo prima del balzo finale della vetta, non era un po' lontanino dalla vetta? Per cui, Allora, hai detto tutte cose giuste. Innanzitutto, il campo, partendo dalla fine, il campo 4 era particolarmente basso. Io quando sono andato nel 2003 il campo 4 si metteva a 7.400-7.500 metri. Noi l'abbiamo messo a 7.100, secondo me, 7.150. Era basso e ti spiego perché. Siccome il meteo non ci aveva mai permesso di andare in alto sulla montagna e di acclimatarci, ossia dare la possibilità fisiologica al corpo umano di poter dormire, mangiare, resistere propriamente in alta quota, quando è arrivato l'annuncio della finestra di bel tempo, noi abbiamo capito che avevamo voglia di andare in cima, ma non eravamo acclimatati. Mm. E quindi abbiamo cercato di mettere l'ultimo campo più in basso per evitare di avere nausea, vomito, di non riuscire a dormire. Sì. E così è stato. La fregatura è che poi il salto è stato di 1000 metri. Esatto. E Tamara, Simone, che ricordiamo non è riuscita ad arrivare alla vetta, questo va detto. Pensate anche le sensazioni che deve avere vissuto. Tu come cosa ci racconti? Guarda, Tamara, noi facciamo fatica a non considerarla uno degli uomini di vetta, perché è arrivata come se uno arrivasse in cortile e non fa due piani di scale per arrivare su in casa. Lei ci vedeva e noi la vedevamo, ha deciso di fermarsi e tornare indietro e ricordo l'ultima volta che ci siamo parlati perché ci incitavamo mi ha detto: Simone, mi sa che mi devi dare una mano a scendere se arrivo in cima, nel senso che siccome la mattina invece era stata male, aveva rimesso, aveva vomitato lo stomaco, ha detto se io arrivo in cima e ce la faceva dal punto di vista di forza fisica, avrebbe poi dovuto chiedere a noi di darle una mano a scendere. E sul Nanga Parbat non si è proprio così capaci di dare una mano a qualcuno, si è tutti al limite. E secondo me per non mettere nelle grane noi o nel mettere nelle difficoltà noi, ha rinunciato a 70, secondo me 60, 70 metri dalla cima. Cioè Oscar pensa. E non c'è mai stata una donna nella storia che ha fatto una prima assoluta invernale un 8000. Quindi rinunciare a così poca distanza, sapendo che diventi la prima e unica, perché poi rimane il K2, non c'è nessuna donna senza che vada al K2 in invernale, avere una capacità. Beh, insomma, vuol dire rinunciare proprio a quel sogno, no? Che Simone Moro ha inseguito. Oscar, qui lo terremo ore e parleremo ore, però dobbiamo concludere, mannaggia. Non so, ci sono delle nuove sfide, Simone, a questo punto? Cosa fai domani? Allora, domani è l'ultimo giorno che sto qui, oggi... No, ma era un domani ideale, cioè un domani... Guarda, ho un progetto grosso con gli elicotteri in Nepal perché voglio continuare il mio progetto di creare una unità di eli soccorso, non tanto per i trekkers e gli alpinisti, ma anche per la popolazione locale. Non ti nascondo che quella è 20 volte più difficile del Nanga Parbat, perché Nanga Parbat è una questione di resistenza, allenamento e fatica. Quello che mi sono messo in testa di fare presuppone anche uno sforzo economico, e in Italia non ti dà mai una mano nessuno, e quindi porca puttana dovrò fare forse da solo. Beh, guarda, puoi contare però sulla rete di tutti gli amici e sostenitori in Italia che faranno il possibile per darti una mano per quel progetto. E intanto, come si suol dire, hai portato a casa lo zaino, perché questo è sempre, no, ci ha raccontato e insegnato Simone Moro, è l'augurio che si fa, porta a casa lo zaino, all'alpinista che parla. Simone, un grosso abbraccio, che arrivi al Pakistan. Grazie ovviamente grazie anche a Filippo Facci. Un abbraccio a Filippo Facci. Caro Oscar, ci fermiamo domani. Oggi penso che abbiamo dato una pagina, abbiamo parlato di una roba un po' diversa. Simone Moro, voglio dire, chi anche critica Simone Moro in Italia va bene criticare tutto, però ragazzi, di fronte a questo ci si inchina e si impara. Questa è la mia idea, appunto. Dai, ci troviamo domani, grazie.